Il terzo anello, ad alta voce. Il richiamo della foresta di Jack London. Traduzione di Gianni Celati. Quattro uomini, con molte cautele, trasportarono la cassa giù da un carro fin dentro un piccolo cortile cintato di alte mura. Qui, un omaccione con maglia rossa abbondantemente ripiegata attorno al collo uscì fuori e firmò il registro del conducente. Ecco l'uomo suo prossimo aguzzino. Buckley intuì e si scagliò selvaggiamente contro le sbarre. L'uomo ebbe un torvo sorriso e prese con sé un'ascia e un bastone. «Lo tirerà mica fuori adesso?» chiese il conducente. «Come no?» rispose l'uomo sferrando un colpo d'ascia alla cassa a modo di dimostrazione. Dovunque l'ascia si abbattesse all'esterno, in quel punto all'interno si scagliava Buck, ringhiando e latrando con tanta frenesia di uscire quanto era la calma con cui lavorava l'uomo dalla maglia rossa ad aprirgli un varco. «Ecco qua, demonio dagli occhi rossi», disse infine l'uomo, quando ebbe praticato nella cassa un'apertura sufficiente a far passare il corpo di Buck. Nello stesso istante lasciava cadere l'ascia portandosi il bastone nella mano destra. Ed era davvero Buck un demonio dagli occhi rossi, tutto raccolto e pronto a balzare, col pelo irto, la schiuma alla bocca e un lampo di follia negli occhi iniettati di sangue. Dritto contro l'uomo si scagliava infine, con le sue 140 libbre di furore, potenziate dalla rabbia ingoiata per 2 giorni e 2 notti. A mezz'aria, nell'attimo stesso in cui le sue mascelle stavano per azzannare l'uomo, ebbe una scossa che gli paralizzò il corpo e gli fece serrare i denti in uno spasimo atroce. Compì un mezzo giro su se stesso per poi stramazzare al suolo sul dorso e su un fianco. Mai era stato picchiato con un bastone in vita sua, perciò non comprese. Per una dozzina di volte ancora caricò e ogni volta il bastone interruppe l'assalto sbattendolo al suolo. «Quello si sa fare a Domarcani!» esclamò entusiasta uno degli uomini sul muro. «Truther doma cavalli selvaggi tutti i santi giorni e alla domenica 2 volte al giorno», fu la risposta del conducente mentre si arrampicava sul carro e avviava i cavalli. Buck riprese i sensi, ma non le forze. Rimase sdraiato dove era caduto, sorvegliando l'uomo con la maglia rossa. «Risponde al nome di Buck», diceva l'uomo tra sé, citando la lettera del taverniere che gli annunciava la spedizione della cassa e il suo contenuto. «Beh, caro Buck», continuò con voce gioviale, «abbiamo avuto la nostra piccola discussione e la cosa migliore è non pensarci più. Tu hai imparato qual è il tuo posto e io so qual è il mio. Se fai il bravo tutto andrà liscio e ci possiamo mettere una bella pietra sopra. Se fai il cattivo ti faccio sputare alle budella a furia di botte, siamo intesi?» Così parlando gli carezzava senza timore la testa che aveva colpito con tanta spietatezza, e sebbene il pelo gli si rizzasse istintivamente al tocco di quella mano, Buck sopportò le carezze senza protestare. Quando l'uomo gli portò dell'acqua, egli la beve avidamente e in seguito inghiottì senza masticare un'abbondante porzione di carne cruda, prendendola pezzo a pezzo dalla mano dell'uomo. Era stato battuto, lo sapeva, ma niente in lui si era spezzato. Capì, una volta per tutte, di non avere alcuna possibilità contro un uomo armato di bastone. Aveva imparato una lezione che non avrebbe scordato per tutta la vita. Trascorsero i giorni e giunsero altri cani, alcuni dentro casse o trattenuti da corde, docili alcuni, altri latrando e infuriando come aveva fatto lui. Ad uno li vide sottomettersi tutti al potere dell'uomo con la maglia rossa. Di nuovo, ogni volta assistendo al brutale spettacolo, gli tornava in mente la lezione appresa: un uomo col bastone, detta legge, è un padrone che va obbedito, quantunque non sia necessario accattivarsi la sua simpatia. E da questo mai s'abbassò Buck, sebbene vedesse cani che, dopo essere stati picchiati, facevano feste a quell'uomo e scodinzolavano e gli leccavano la mano. Vide anche un cane che non voleva accattivarsi la sua simpatia e neppure mostrargli obbedienza, e che finì per soccombere nella lotta per la supremazia. Giungevano di tanto in tanto degli uomini, degli sconosciuti, che parlavano in modo sovreccitato, in modo suadente, o in varissimi modi all'uomo con la maglia rossa. Ed ogni qualvolta passava del denaro tra loro, gli sconosciuti portavano con sé un cane, o più cani. Buck si chiedeva dove andassero, giacché non tornavano mai indietro. Ma sentendo in sé anche un forte timore per il futuro, ogni volta si rallegrava di non essere stato prescelto. Venne però il suo turno, alla fine, in forma di un ometto rinsecchito che parlava un pessimo inglese, con molte strane e inusitate esclamazioni affatto incomprensibili per Buck. «Sacre dame!» esclamò costui, quando mise gli occhi su Buck. «Cane fortissimo quello, eh! Quanto costa?» 300 ed è regalato», fu la pronta risposta dell'uomo con la maglia rossa. «E siccome sono soldi del governo, non farmi tante storie, eh, Perrò?» Buck vide del denaro passare tra i due uomini. Dunque non fu sorpreso quando l'uomo rinsecchito lo condusse via, assieme a Carly, una Terranova dal carattere bonario. Quella fu l'ultima volta che vide l'uomo con la maglia rossa. Poi, quando sul ponte del Narwhal, assieme a Carly, guardò Seattle allontanarsi, quella fu l'ultima volta che vide le calde terre del sud. Buck e Carly vennero condotti da Perrot sotto coperta e affidati ad un gigante dalla faccia scura chiamato François. Perrot era un franco-canadese di carnagione scura e François un mezzo sangue franco-canadese due volte più scuro dell'altro. Questi due rappresentavano un tipo d'uomo che Buck non conosceva, era però destinato a vederne molti del genere. Pur senza mai provare affetto per loro, tuttavia imparò a rispettarli con molta lealtà. Comprese in breve che Perrot e François erano persone oneste, calmi e imparziali nell'amministrare la giustizia, e troppo esperti in fatto di cani per lasciarsi ingannare da questi. Sotto coperta nel Narwhal, Buck e Carl incontrarono altri due cani. Uno di questi era un grande animale tutto bianco, che il capitano di una baleniera aveva portato da Spitzbergen e che aveva poi seguito una spedizione geologica nelle isole Barents. Era un cane cordiale ma in modo un po' birbone, mostrandosi festoso proprio mentre meditava un tiro mancino, come quando al primo pasto rubò il cibo dal piatto di Buck. Mentre Buck scattava per punirlo, la frusta di François sibilò nell'aria, raggiungendo il colpevole prima di lui. Sicché a Buck non rimase che recuperare il proprio osso, ma concluse dentro di sé che François era un uomo giusto, e da quel momento il mezzosangue cominciò a crescere nella sua stima. L'altro cane non fece mosse d'amicizia, e non ebbe d'alcuno. Giorno e notte la nave vibrava al pulsare instancabile dell'elica, e sebbene un giorno fosse uguale all'altro, Buck s'accorgeva che l'aria stava diventando a poco più fredda. Un bel mattino, infine, l'elica si arrestò, e un'atmosfera di eccitazione pervase tutto il Narwhal. Di ciò si rese conto Buck, al pari degli altri cani, ed ebbe coscienza che qualche novità era imminente. François pose i cani al guinzaglio e li condusse sul ponte. Ai primi passi sulla superficie fredda, le zampe di Buck affondarono in qualcosa di bianco e morbido, simile al fango. Egli si ritrasse sbuffando, ma anche dall'aria veniva giù quella roba bianca. Si scrollò e gliene cadde addosso dell'altra. La annusò con curiosità, poi tentò di leccarla. Bruciava come fuoco e scompariva subito. La cosa lo rese perplesso. Tentò di nuovo, col medesimo risultato. Intorno a lui gli astanti ridevano rumorosamente, ed egli ne ebbe vergogna, senza capire di che si trattasse. Era, infatti, la sua prima neve. La prima giornata di Buck sulla spiaggia di Daia fu una specie di incubo. Ogni ora fu colma di sorprese e violente emozioni. Improvvisamente strappato dal cuore della civiltà, era stato gettato nel bel mezzo di un mondo primordiale. Non si apriva certo davanti a lui una vita d'ozio, sotto il sole, e senz'altro da fare che andarsene a spasso e annoiarsi. Qui non c'era mai requie né quiete, né un momento di sicurezza. Tutto era confusione e attività, e ad ogni attimo la vita era in forse e il corpo in pericolo. Stare costantemente allerta era una necessità assoluta, giacché questi uomini non erano uomini e questi cani non erano cani. Erano selvaggi gli uni e gli altri, che non conoscevano altra legge al di fuori di quella del bastone e della zanna. Mai aveva visto cani combattere come combattevano queste creature simili ai lupi, e la sua prima esperienza costituì per lui una lezione indimenticabile. È vero che fu un'esperienza indiretta, altrimenti non sarebbe sopravvissuto per farne tesoro. La vittima fu Carly, infatti. Erano accampati vicino all'emporio del legname, e Carly, con i suoi modi cordiali, cercava di fare amicizia con un cane eschimese, grosso quanto un lupo adulto, eppure neanche la metà di lei. Non vi fu preavviso, soltanto un fulmineo balzo e denti serrati in uno scatto metallico, poi un salto all'indietro, altrettanto rapido, e il muso di Carly era squarciato dall'orecchio alla mascella. Era quello il modo di combattere dei lupi, colpire e balzare via. Ma la cosa non finì lì. 30 o 40 cani eschimesi accorsero sul luogo e fecero circolo intorno ai contendenti con aria interessata e silenziosa. Buck non capiva il senso di quella muta attenzione, né l'avida mossa con cui quei cani si leccavano gli angoli della bocca. Carly aggredì l'avversario, che di nuovo colpì e saltò da parte. Al successivo assalto, l'avversario la fermò col petto, in un modo affatto insolito che gli fece perdere l'equilibrio, e Carly non riuscì più a mettersi in piedi. «Questo!» avevano atteso i cani eschimesi all'intorno. Si strinsero su di lei ringhiando e mugolando, mentre con urla disperate Carly rimaneva sepolta sotto la massa di corpi irsuti. Tanto improvvisa fu la cosa, e tanto inattesa, che Buck rimase interdetto. Vide Spitz cacciar fuori la lingua scarlatta, in quel che era il suo modo di ridere. Poi vide François gettarsi in mezzo alla baraonda di cani, brandendo un'ascia. 3 uomini armati di bastoni lo aiutavano a disperdere le bestie, e ci volle poco. 2 minuti dopo che Carly era caduta, gli ultimi assalitori furono cacciati a colpi di bastone. Ma Carly giaceva inerte e senza vita, quasi letteralmente fatta a brani, nella neve tutta rossa e calpestata, mentre l'oscuro mezzosangue chino su di lei lanciava orribili imprecazioni. Questa scena tornò spesso in mente a Buck, turbandogli il sonno. Dunque le cose andavano così. Nessuna lealtà. Una volta a terra, eri finito. Ebbene, avrebbe fatto in modo di non andare a terra. Di nuovo Spitz cacciò fuori la lingua e rise, e da quell'istante Buck lo odiò di un odio cupo e mortale. Ancora non si era ripreso dalla scossa per la tragica fine di Carly, quando dovette sopportare un'altra violenta emozione. François gli pose addosso un sistema di cinghie e di fibbie, una bardatura simile a quelle che a casa sua aveva visto gli stallieri mettere addosso ai cavalli. E come aveva visto lavorare i cavalli, così fu posto a lavorare lui, trascinando François su una slitta verso una foresta che costeggiava la vallata, per poi tornare con un carico di legna da ardere. Benché la sua dignità ne uscisse alquanto malconcia nel vedersi trasformato in un animale da tiro, egli era troppo saggio per ribellarsi. Vi si adattò, dunque, di buon grado, e fece del suo meglio nonostante la novità e la stranezza di tutto quanto. François era severo, pretendeva obbedienza immediata e l'otteneva in virtù della frusta. Dave, che era il cane di coda ed assai esperto, addentava Buck da dietro e nei fianchi ogni volta che era maldestro. Spitz era il cane di testa, altrettanto esperto, e non potendo sempre raggiungere Buck, gli ringhiava a tratti aspri rimproveri. Oppure si gettava accortamente con tutto il proprio peso contro le tirelle, così da trascinare Buck in direzione giusta. Buck imparava senza sforzo, e sotto la guida congiunta dei due compagni e di François, fece subito notevoli progressi. Prima di tornare al campo sapeva già fermarsi quando gli gridavano «Oh!» e partire al grido di «Mash!», girare al largo nelle curve, tenersi distante dal cane di coda quando la slitta carica in discesa incalzava troppo dappresso. 3 cani molto buoni», disse François a Perrault. «Quel Buck tira come un demonio. Io insegno a lui tutto in poco tempo». Thank you. Nel pomeriggio, Perrot, che aveva fretta di mettersi in strada con i suoi dispacci, tornò con altri due cani. Li chiamava Billy e Joe. Due fratelli, entrambi veri eschimesi. Figli della stessa madre, eppure diversi come il giorno e la notte. L'unico difetto di Billy era l'eccessiva mansuetudine, mentre Joe era l'opposto, poco cordiale e introverso, con uno sguardo cattivo e un ringhio perpetuo. Buck li accolse come camerati. Dave non concesse loro attenzioni, mentre Spitz si diede subito a metterli in riga, prima l'uno e poi l'altro. Verso sera Perrot condusse un altro cane, un vecchio eschimese lungo e scarno, dall'aria desolata, col muso pieno di segni di lotta e un occhio solo. Ma in quell'occhio brillava una tale minacciosa fierezza da imporre rispetto a chiunque. Lo chiamavano Sol Lex, che vuol dire il rabbioso. Come Dave, questo cane non chiedeva niente, non concedeva e non s'aspettava alcunché. E quando s'avviò con passo lento ma risoluto tra di loro, persino Spitz lo lasciò in pace. Quel cane aveva solo un tratto particolare, che sfortunatamente toccò a Buck mettere in luce. Non desiderava essere avvicinato dalla parte dell'occhio cieco. D'un tale affronto Buck si rese colpevole senza volerlo e se ne avvide soltanto quando Sol Lex volteggiò su se stesso, lacerandogli la spalla all'osso per la lunghezza di una spanna almeno. Mai più a Buck venne in mente di avvicinarsi da quel lato e fin tanto che rimasero insieme i due non ebbero più motivi di lite. Come per Dave, l'unica ambizione di Sol Lex pareva quella di essere lasciato in pace. Ma in seguito Buck s'accorse che entrambi avevano altre ambizioni e ben più vitali. Quella notte Buck affrontò il grosso problema del dormire. La tenda, illuminata da una candela, diffondeva una luminosità confortante in mezzo alla bianca distesa. Ma quando Buck con tutta naturalezza vi entrò, sia Perrot che François lo bersagliarono con improperi e utensili, finché egli, riavutosi dallo sbigottimento, con ignominiosa fuga, non scappò fuori nel freddo. Soffiava un vento gelido, che pungeva in modo doloroso, procurandogli un fastidio ancor più acuto alla spalla ferita. E si sdraiò nella neve, Buck, e cercò di dormire, ma il gelo lo fece subito balzare in piedi tutto tremante. Triste e sconsolato allora vagava tra le molte tende, soltanto per scoprire che in qualsiasi punto faceva freddo allo stesso modo. Qua e là cani selvaggi gli si lanciavano contro, ma egli rizzava il pelo sul collo e mugolava. Imparava davvero in fretta, così che quelli lo lasciavano andare senza molestarlo. Gli venne un'idea, infine. Sarebbe andato a vedere come facevano i suoi compagni di tiro. Con suo grande stupore, i compagni di tiro erano tutti scomparsi. Riprese dunque a vagare per il vasto accampamento in cerca di loro, fino a tornare al punto di partenza. Erano forse nella tenda? No, non poteva essere. Altrimenti quelli non l'avrebbero cacciato fuori. Dove potevano mai essere? A coda bassa e tutto intirizzito, veramente disperato, girava intorno alla tenda senza meta e improvvisamente la neve cedette sotto le sue zampe anteriori ed egli sprofondò. Qualcosa si muoveva sotto i suoi piedi. Buck fece un salto all'indietro, ringhiando e rizzando il pelo, del terrore di ciò che è ignoto e invisibile. Ma un guaito sommesso e amichevole lo rassicurò. Tornò sui suoi passi a vedere che cos'era. Un soffio d'aria calda giunse alle sue narici. E lì, arrotolato nella neve come una palla, c'era Billy. Uggiolava in modo pacifico, si agitava per mostrare le sue buone intenzioni e giunse persino, quale offerta di pace, a leccare il muso di Buck con la lingua calda e umida. Ecco un'altra lezione. Dunque facevano così, eh? Ormai sicuro di sé, Buck si scelse un posto e dopo confusi sforzi e molto spreco di energie, arrivò finalmente a scavarsi un buco. In un baleno il calore del suo corpo riempì quello spazio angusto ed egli stava già dormendo. La giornata era stata lunga e faticosa e dormì profondamente, in tutta comodità,